Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata speciale di Capodanno, come ormai negli ultimi anni, dedicata a gialli, thriller e noir, che lo sappiamo sono i generi più amati dai lettori. Abbiamo deciso di fare un piccolo viaggio in questo genere narrativo, considerando alcuni dei romanzi pubblicati ultimamente dagli scrittori italiani. E partiamo dal thriller che sta dominando le classifiche. Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Dove credi di trovarti? Nel labirinto. Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler. Un profiler? Provano a entrare nella sua testa. È stata ritrovata, ormai non c'è più bisogno di te. Forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuto, era il trailer di L'uomo del labirinto, film tratto dall'omonimo libro di Donato Carrisi e diretto sempre dallo stesso Carrisi alla sua seconda prova da regista dopo La ragazza nella nebbia. E visto che ormai Carrisi sta creando questo binomio romanzo-film, chissà che non diventi presto un film anche il suo ultimo thriller, La casa delle voci, pubblicato da Longanesi da poco, il 2 dicembre scorso. Il protagonista è un uomo, Pietro Gerber, psicologo specializzato in ipnosi che lavora a Firenze e soprannominato l'addormentatore di bambini. Un giorno riceve una strana telefonata. Una sua collega australiana gli chiede di seguire una sua paziente, Anna Hall. Anna è ormai una donna, ma ha bisogno di recuperare la sua memoria di bambina perché forse da piccola, quando viveva in modo insolito con i suoi genitori in Toscana, ha commesso un crimine. È un carnefice o una vittima? Toccherà a Pietro Gerber aiutare Anna a far luce sul suo passato. Un passato di cui lei ricorda, per esempio, le regole che doveva rispettare in famiglia. Per esempio, regola numero 2: gli estranei sono il pericolo. Regola numero 3: non dire mai il tuo nome agli estranei. E allora sentiamo come Donato Carrisi descrive il suo protagonista. Pietro Gerber ha varie nature. L'addormentatore di bambini è figlio di un addormentatore di bambini, è figlio di uno psicologo infantile specializzato in ipnosi. Mi piaceva il racconto di una figura simile, nel senso che chi è capace di esplorare la mente altrui ha sempre un fascino particolare, perché possiede probabilmente dei modi, delle tecniche per entrare dove magari neanche noi possiamo o riusciamo ad entrare. Entrare nella testa di un bambino è la cosa più difficile in assoluto. Esplorare il confine che c'è tra la realtà e il gioco è molto complesso. E nelle sedute con Pietro Gerber, Anna cercherà appunto di recuperare attraverso l'ipnosi la sua parte bambina e quindi scoprire che cosa è successo nel suo passato in Toscana. Una cosa la possiamo dire subito. Lei ricorda una cassa di legno che i genitori custodivano gelosamente e sopra questa cassa c'era inciso il nome di Ado. Ma che vita faceva Anna da bambina? Era una vita piuttosto angosciante. Avventurosa la definirei, perché tutta la nostra infanzia è sempre avventurosa e ognuno di noi ha avuto un'infanzia avventurosa. Io faccio dire a Pietro Gerber una cosa, che la famiglia è il posto più sicuro ma anche il più pericoloso per un bambino, e in questo romanzo lo racconto, nel senso che quando spiego la famiglia di Anna Hall, quando racconto le avventure della sua infanzia, è chiaro, il lettore percepirà in alcuni casi un estremo pericolo e in altri sentirà appunto di essere al sicuro. Ecco, giocando con questo equilibrio riesco a raccontare la storia di una famiglia, ma è la storia della famiglia che tutti abbiamo avuto. Quante volte abbiamo realmente corso dei pericoli durante la nostra infanzia, nonostante mamma e papà ci tenessero al sicuro. Ora, Donato Carrisi le definisce avventure. Io dico che sono cose molto inquietanti, perché per esempio c'era un gioco che Anna faceva con i suoi genitori, e questo possiamo dirlo. La mamma e il papà la chiudevano in una cassa. Lei sentiva anche il rumore del martello sui chiodi e la tenevano chiusa in questa cassa come una sorta di prova. Insomma, noi naturalmente non spieghiamo il perché si facesse questo gioco, ma diciamo solo che lei doveva stare lì dentro e resistere. Beh, insomma, chiama l'avventura, Donato Carrisi. Ma lo facevano per tenerla al sicuro. E questo, e poi scoprirete voi leggendo di che cosa si tratta. Magari avevano ragione, magari c'era un motivo specifico. Ecco, una delle regole che citavi prima, la prima regola di Anna Hall, la prima regola che i genitori hanno appunto insegnato ad Anna Hall è: fidati soltanto di mamma e papà. Ed è quello che accade ad ognuno di noi. Noi ci fidiamo ciecamente da piccoli di mamma e papà, e non potrebbe essere altrimenti, insomma, anche quando a volte ci sembra che siano strani. E Anna Hall ha una famiglia molto strana, e quando ce la racconta avvertiamo questa stranezza e non siamo sicuri che lei non sia in pericolo. Però è proprio su questo che si gioca il romanzo. Gioco è prima di tutto per il lettore. Dei Tazenda ci portano in Sardegna, ma non la Sardegna turistica o da cartolina, la Sardegna ancestrale, la Sardegna delle tradizioni che sfiorano l'esoterismo. Tutto questo è presente nel thriller L'isola delle anime di Pier Giorgio Puligi, pubblicato da Rizzoli. Fra l'altro questo è il libro che ha vinto il premio Scerbanenco 2019, riconoscimento importante appunto per il settore dei gialli, thriller e noir. Protagoniste sono due poliziotte, Mara Reis, ispettore capo alla questura di Cagliari, ed Eva Croce, specializzata in sette delitti rituali, che è stata trasferita da Milano a Cagliari, diciamo un po' per punizione. Sono infatti due donne contro, considerate scomode dai loro superiori, e per questo vengono assegnate alla sezione dei cold case, dei casi irrisolti. Inizialmente le due non si sopportano, ma diciamo che lentamente iniziano a far squadra proprio perché intuiscono che l'omicidio di una ragazza appena avvenuto potrebbe essere legato a due omicidi avvenuti nel passato e di cui ovviamente non è mai stato trovato il colpevole. Sembrano delitti rituali, visto che le donne uccise vengono ritrovate con una maschera sul volto. Un thriller inquietante che mescola le indagini alle tradizioni di epoca prenuragica, come ci racconta Pier Giorgio Puligi. Io ho innestato sui riti, sui siti archeologici, sull'antropologia sarda, sulle vecchie tradizioni e un po' di folklore la base del thriller. Però volevo che arrivasse, che le persone conoscessero una Sardegna diversa, quindi quella meno, sai, stereotipata, quella non turistica, grazie soprattutto a queste antichissime tradizioni di epoca prenuragica. Quindi c'è il culto della Dea Madre molto forte, c'è l'utilizzo delle maschere del carnevale sardo. Già il carnevale sardo... Che non sardo... sono le maschere dei mamuttones, perché io all'inizio, leggendo il romanzo, ho pensato subito a quello, lo diciamo, le vittime sostanzialmente, queste donne che sono state uccise, vengono ritrovate appunto con una maschera sul viso. Invece no, non sono le maschere dei mamutones, ma sono le maschere del carnevale sardo, che è qualcosa di diverso. Sì, il carnevale di Ottana, nello specifico. La maschera si chiama Saccarazza e Boe. È una maschera ligna. Noi non riusciremo mai a pronunciarlo, ma ci fidiamo. Significa maschera del bue, quindi okay. A Foggia e Taurine è una maschera in legno di pero, con le corna molto appuntite e molto lunghe. Carnevale in sardo si chiama Karasegare, che significa... traduciamolo con carne viva da lacerare, quindi è un ritmo... Carne viva da lacerare? Sì, sì, perché è sempre presente una vittima da immolare alla divinità. Alcune teorie, quelle di, per esempio, l'antropologa Dolores Turchi, parla di riti carnevaleschi di derivazione dionisiaca. E infatti in questo caso si parla di omicidi rituali, mm-hmm. Anche se all'inizio i vertici della polizia non vogliono parlare di omicidi rituali. C'è anche un personaggio molto bello di questo romanzo, che è Moreno Barrali, è un ispettore capo che ormai è malato di cancro e alla fine della sua vita, che però sarà molto... utile, diciamo semplicemente così, alle due investigatrici. Sì, su questi due casi di omicidio, che poi diventeranno tre, c'è una sorta di maledizione. Tutti i poliziotti dicono, mettono in guardia queste due ragazze, dicono loro che chiunque abbia investigato ha fatto una brutta fine. C'è il rischio di risvegliare essas animas malas, che sono le anime del male, malvagie. Moreno Barrali invece è l'unico investigatore ancora in vita che ha indagato su entrambi i casi. Però attraverso di lui ho voluto raccontare il fallimento investigativo. È una persona che attraverso il raziocinio non è riuscita a risolvere questi due omicidi. E se ci pensi, in un giallo, il cold case è veramente il paradigma del fallimento per un investigatore. È diventata un'ossessione per il tuo Barrali. Assolutamente. Cioè, lui a un certo punto prova una sorta di predestinazione nei confronti di questi casi, quasi che davvero avesse una missione da compiere. Ma quando questa missione assume i contorni di un'ossessione, tutti iniziano a pensare un po' male di lui. Pensano che sia diventato pazzo, che abbia una visione a tunnel, perché ha questa teoria sul fatto che questo assassino, questi assassini potrebbero aver colpito molto più spesso rispetto a quanto loro credano. L'assassino colpisce sempre in una notte particolare, la notte dessa Dia de los Mortos, che in sardo verrebbe tradotta come notte delle anime. Sarebbe la notte fra il primo e il 2 novembre. Esatto. L'unica notte in cui, secondo la tradizione, i morti possono tornare sulla terra. E infatti si lasciano le tavole imbandite, tu descrivi, esatto. Perché vengono in casa e bisogna nutrirli, bisogna accoglierli. E pensa che in alcuni paesini della Sardegna questo rito tuttora si compie, quindi la tavola viene lasciata imbandita per le anime che potrebbero tornare quella notte. Luigi ci ha portato in una Sardegna lontana dall'immagine glamour. Gabriella Genisi ha messo il Salento al centro di un romanzo nero, ma anche qui non il Salento turistico da cartolina, ma il Salento fatto di crimine, superstizioni e magia. Il romanzo si intitola Pizzicamara, pubblicato da Rizzoli, ha come protagonista il maresciallo dei carabinieri Chicca Lopez, una giovane donna dal passato doloroso, la mamma l'aveva abbandonata, che vive con la sua compagna, ma la relazione in questo momento è un po' in crisi. Chicca Lopez dovrà indagare sugli omicidi di alcune ragazze, ma anche sulla scomparsa di un cadavere dal cimitero. Un romanzo nero che trae spunto da fatti reali, come ci racconta Gabriella Genisi. Per scrivere questo libro ho consultato la cronaca salentina degli ultimi 20 anni, e il dato che mi ha colpito, devo dire, in negativo è quello dell'alto tasso di suicidi giovanili. E ho raccontato sicuramente un Salento inconsueto, perché il Salento che siamo abituati a conoscere è quello del dépliant turistico, quindi percepiamo il Salento un po' come una sorta di divertimentificio. Io invece racconto un Salento più cupo, più nascosto. Però il noir deve indagare nelle pieghe più profonde di un territorio e delle storie. La storia che ho confezionato è sicuramente una storia dura, però purtroppo si avvicina drammaticamente a quelle reali. Ecco, il Salento che descrivi tu è un Salento ovviamente criminale, è anche un Salento fatto di magia, magia nera, superstizioni, c'è un personaggio, la Macara viene detta, insomma sarebbe una sorta di strega, una specie di indovina, insomma hai voluto mettere insieme il Salento di oggi e tutte queste tradizioni antiche, anche superstizioni, perché? Perché in questo momento in cui il Salento potrebbe vivere un'età d'oro e quindi ai massimi vertici del turismo internazionale, in questo momento in cui, ripeto, tutto potrebbe andare benissimo, c'è una piaga biblica che si abbatte su questa terra ed è la Xylella, e quindi è come se una forza malefica si fosse abbattuta su questo territorio, e questo mi ha fatto pensare che bisognava andare a scavare nel passato per conoscere la vera essenza di questo luogo. E ho scoperto, pur essendo io pugliese, non sapevo di questo fortissimo legame tra Salento e magia. Ecco, ma queste superstizioni sono ancora vive, presenti nel Salento, o è un'immagine un po' estrema che hai voluto dare nel tuo romanzo? Io ho scoperto che per ogni luogo che esiste in Salento esiste una leggenda. Una delle scintille iniziali per la stesura di questo libro è arrivata quando, invitata dal Festival Armonia a Tricase, ho presentato il libro nella Chiesa dei Diavoli. Era un ossimoro che mi ha, devo dire, lasciata abbastanza sorpresa. Quando sono andata a indagare ho scoperto una leggenda che dice che la chiesa è stata creata in una sola notte da Satana. degli autori italiani più amati dai lettori, Gianrico Carofiglio. Di lui abbiamo anche parlato nei due speciali sui libri che sono stati protagonisti del 2019, insomma quelli che sono stati più venduti. Tra l'altro, se avete perso questi due speciali, li trovate in podcast su radio24.it nella sezione programmi, scegliendo appunto il cacciatore di libri. E dicevamo allora di Gianrico Carofiglio, è suo uno dei noir di maggior successo di questo periodo, La misura del tempo, pubblicato da Einaudi, romanzo in cui è tornato il personaggio seriale dell'avvocato barese Guido Guerrieri. A distanza di quasi 30 anni, Guerrieri incontra Lorenza, una donna con la quale aveva avuto una relazione coinvolgente e appassionante quando lui era giovane, aveva circa 25 anni. Ma ora il fascino di quella donna e la sua risolutezza sembrano essere svaniti. Quella che gli si presenta davanti è una donna grigia, dimessa, che gli chiede aiuto. Il figlio Jacopo è stato già condannato in primo grado per un omicidio, ma lei è convinta della sua innocenza. Un romanzo che è sicuramente romanzo processuale, perché attraverso il lavoro di Guerrieri il lettore entra nel caso giudiziario, legge proprio le carte, ma è anche un romanzo pieno di riflessioni sul tempo che passa e che a volte con qualcuno può essere inclemente. Troviamo dunque un Guido Guerrieri forse più malinconico del solito, ma sempre animato dal dubbio. Lo stesso dubbio che è alla base della filosofia investigativa di un altro personaggio seriale di Carofiglio, ossia il maresciallo Fenoglio. La parola a Gianrico Carofiglio. Il dubbio può sembrare paradossale, ma è lo strumento fondamentale per conseguire conoscenze affidabili. Se io faccio un'ipotesi, e magari una buona ipotesi, e poi mi dedico solo a confermare quell'ipotesi senza valutare la possibilità di alternative, potrò certamente riuscire a confermarla e può essere che quell'ipotesi fosse giusta, ma intanto non guadagnerò nulla nel processo, nulla di conoscenza. Ma se l'ipotesi, anche se attraente, era sbagliata, e io senza praticare metodicamente il dubbio vado avanti a testa bassa solo per confermare quell'ipotesi, mi esporrò, e soprattutto se esercito un potere esporrò gli altri, a conseguenze anche molto gravi. Viceversa, se ogni ipotesi, se ogni pezzo di conoscenza viene sottoposto al dubbio metodico, le possibilità sono due: o viene, diciamo, cancellato dall'attività di controllo, allora vuol dire che non era buono, oppure viene confermato, e confermato in maniera molto più attendibile e molto, molto più tranquillizzante. Il dubbio e l'errore sono due strumenti dell'intelligenza che vuole conoscere il mondo. Chi non pratica il dubbio e chi non pratica l'errore consapevole, cioè sbagliare velocemente e rimettersi in piedi e ricominciare, semplicemente non fa cambiare di una virgola il destino suo personale e quello dell'umanità. Questo è anche, non solo, è anche un romanzo processuale, nel senso che attraverso lo sguardo di Guerrieri noi leggiamo anche le carte di questo processo, cerchiamo di capire che cosa può non essere andato nel verso giusto, insomma. Spesso noi siamo un po' traviati nella nostra visione della giustizia da tutto l'immaginario che ci arriva, per esempio, dai film americani. Io ricordo anche Perry Mason, ma io ho una certa età, diciamo. Attraverso i tuoi romanzi si vede anche invece il funzionamento della giustizia italiana, che è diverso da quello che vediamo appunto nei film americani, perché è un sistema giudiziario, un sistema processuale diverso. Ecco, secondo te i romanzi possono contribuire anche a dare una cultura giudiziaria in più per chi di legge, insomma, non si occupa come mestiere? Ma intanto chiariamo che i film e i telefilm con Perry Mason non avevano nulla a che fare, anche quelli, con il vero sistema processuale. Era una farsa più o meno brillante, con nessuna attinenza rispetto al mondo reale. I processi sono anche un po' più noiosi di quelli che vediamo in TV. Sì, ma a parte il fatto che spesso sono più noiosi, ma a volte possono essere appassionanti. Quello che si vede nei telefilm di Perry Mason, ripeto, non ha nulla a che vedere col mondo reale. Ciò detto, e per rispondere alla tua domanda, sicuramente un buon romanzo, e in particolare un buon romanzo di ambientazione giudiziaria, può anche, come effetto collaterale direi, ampliare la conoscenza del pubblico su temi di interesse generale. Non è ovviamente quello lo scopo dell'autore. Lo scopo dell'autore, specificamente il mio scopo quando scrivo un romanzo, è raccontare buoni personaggi e buone storie. Storie che, se sono realistiche, devono essere plausibili e quindi devono tener conto di come funziona il mondo reale. Se una storia è ambientata in un processo in Italia oggi, deve essere raccontata tenendo conto di come funzionano le cose in un processo o in un'indagine in Italia oggi. Non sempre le cose vanno così, insomma, permettimi questa piccola punta amichevolmente polemica. ha a che fare con il patto con il lettore. Se tu prometti al lettore che gli racconti una storia realistica, la storia deve essere realistica. Tra gli autori italiani di thriller più amati c'è ormai da qualche anno anche Ilaria Tuti, che aveva esordito con Fiori sopra l'inferno, diventerà tra l'altro presto una serie TV, e che nel 2019 è arrivata in libreria con Ninfa dormiente, entrambi libri pubblicati da Longanesi. Un'autrice tenuta un po' a battesimo da Donato Carrisi, che ne sottolinea spesso le qualità narrative. In Ninfa dormiente la scrittrice friulana ha raccontato una nuova storia che intreccia i ritmi del thriller con le descrizioni dei paesaggi di montagna. La protagonista è sempre Teresa Battaglia, commissario di polizia e profiler, quasi sessantenne, con i primi segni dell'Alzheimer che cerca di nascondere a tutti. Stavolta ha a che fare con un cosiddetto cold case, un omicidio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutto nasce dal ritrovamento di un quadro, La ninfa dormiente, che risulta essere stato dipinto con il sangue. Ci sono anche tracce di fibre cardiache, come se il pittore l'avesse dipinto intingendo le mani nel cuore di un cadavere. Il pittore è noto, si sa chi è, ma non sembra essere lui l'assassino. Ma soprattutto, chi è la vittima? E perché è stato compiuto questo omicidio? Toccherà a Teresa Battaglia scoprirlo. Ecco come la descrive Ilaria Tuti. Teresa Battaglia per me ormai è vera. È un'amica, la sento vicino, mi è venuta a trovare qualche anno fa in un'immagine molto precisa. Ero in cerca di un personaggio, sentivo il bisogno molto come lettrice, amante dei thriller, stentavo a trovare una certa figura di donna e me la sono creata. Quindi questa Teresa, quasi sessantenne, commissario di polizia, fuori forma, quindi non corrisponde in nessun modo ai canoni, allo stereotipo e ai canoni che la società un po' anche in modo subliminale, ma neanche troppo, ci impone. Ecco, è nata così questa donna un po' corrucciata, con questa espressione sofferente, china su dei biglietti in cui annota effettivamente tutto quello che le accade nella giornata. Tanto più che la mente è la sua arma più affilata. Lei dà la caccia ai killer, agli assassini, prima nella mente, no? Attraverso la psicologia, cerca di capirli per anticipare le loro mosse. E quindi vedere sgretolare proprio questa sua capacità, la mente, i ricordi, le radici che per lei sono così importanti, la pongono, diciamo, questo problema la pone di fronte a una sfida che è drammatica. Veniamo al caso di Ninfa dormiente. È un dipinto, è un quadro, ma è un quadro insolito. E dico che è un dipinto un po' strano perché si scopre subito nelle prime pagine dall'analisi che viene fatta che è stato dipinto con il sangue. Come ti è venuta questa idea? Sì. Questo è il mio gusto un po' horror, no? Nero, che si è rivelato proprio nel dipinto, che è un modo per collegare i due filoni di questo romanzo, no? Il passato e il presente. La ninfa dormiente è il punto di collegamento. Teresa rimane affascinata, ma tutti subiscono l'incanto di questa donna misteriosa. Il sangue è l'unica traccia di un probabile omicidio avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale sulle montagne friulane. La ninfa dormiente è stata dipinta da un partigiano proprio in quegli ultimi giorni. Quindi l'autore del quadro si conosce, ma non si conosce chi è la vittima. Esatto, e Teresa doveva riavvolgere un po' il filo, arrivare in questo passato e scoprire gli ultimi giorni della ninfa dormiente. Ed è tutto anche per questo speciale che abbiamo dedicato, come ormai da tradizione a Capodanno, a gialli, thriller e noir italiani. Se volete riascoltare questo e le altre puntate del Cacciatore di Libri, naturalmente c'è sempre il podcast. Basta andare sul sito di Radio 24, cercare nella sezione Programmi e scegliere il Cacciatore di Libri. Vi ricordo che siamo anche presenti sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Vi ricordo anche che normalmente il Cacciatore di Libri va in onda ogni sabato alle 6:30 del mattino, ma anche alle 15:30. Grazie in regia Filippo Aureggi, come sempre da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.